لا يعتب حدا ولا يزعل حدا، أنا لا حبيبي وحبيبي إلي، أنا لا حبيبي وحبيبي إلي. يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي، لا يعتب حدا ولا يزعل حدا، أنا لا حبيبي وحبيبي إلي. حبيبي ندهني قال لي الشتي راح، رجعت اليمامي زهر التفاح. حبيبي ندهني قال لي الشتي راح، رجعت اليمامي زهر التفاح. Eccoci qua. Siamo tornati e tornate. Oggi nuova puntata dalla Palestina. La settimana scorsa l'abbiamo saltata per motivi politici, sì. Nel senso che era il 25 aprile. Eravamo tutti abbastanza impegnati e impegnate nella nostra ricorrenza e quindi abbiamo deciso di posticipare il nostro usuale incontro con i nostri compagni palestinesi. Ma appunto, proprio per rimanere in tema resistenza, perché è passata soltanto una settimana, abbiamo deciso di parlare con loro della resistenza palestinese. Esattamente, per rimanere in tema. Adesso fra qualche minuto inizieremo a chiamare il primo ospite. Esatto. Ne abbiamo due, giusto Giulia, alla fine? Sì, abbiamo due abbastanza consistenti oggi. Consistenti, come se le altre volte invece erano leggerissimi. Esatto. No, assolutamente, però diciamo che anche oggi il tema è scottante. È anche molto interessante, secondo me, il tema di oggi. Sì. Come abbiamo scritto, parleremo di, appunto, dell'esistenza, parleremo di intifada, parleremo dei campi profughi, parleremo tendenzialmente delle relazioni tra l'amministrazione palestinese e il popolo palestinese. E se riusciamo, perché è un argomento un po' lungo, vediamo se secondo me qualcosa riusciamo a dire, anche del processo di normalizzazione. Eh già, secondo me molti si staranno chiedendo che cos'è. E lo scopriremo fra poco. Bene. Questa era Feyruz, Ana la Habibi. Io direi di mandare un altro brano, okay. E poi iniziare con le telefonate. Uno a caso scelgo io. Scegli pure tu a caso. Allora, clicco su Just uno a caso. Another one music, yep. And then another we song. Will start with Call Our Comrades in Palestine. وتملأ أحلامي بأشباح أرض قصية ما رأتها غريبة وقد شبت مشارق الأرض ومغاربها ولا من يسمع ولا من يسمع باي Eccoci, benvenute, benvenuti, oggi di nuovo in collegamento con la Palestina. Ok. Oggi abbiamo già anticipato, parleremo principalmente di resistenza e tutte le sue varie declinazioni nella terra palestinese, che cosa significa, ieri e oggi, quindi sarà una puntata molto, molto... tosta, si prevede, come sempre, d'altronde. Come solito nostro. E, la prima telefonata che andiamo a fare è un nostro compagno e carissimo amico. Si tratta di Ammar, è uno dei nostri amici guide e guide di Deisha. Lui è originario di un paesino vicino a Hebron, la sua famiglia è originaria di un paesino vicino a Hebron. E poi che è stata dislocata appunto nel campo profughi di Deisha. E lui fa parte dell'associazione Leilac con cui noi collaboriamo da diversi anni per il progetto di arrampicata e appunto ci ha guidato spesso nella scoperta della Palestina in questi anni. E quindi direi basta girarci attorno e lasciamo la parola ad Ammar. Tu... No, ho sbagliato persona. Non fa neanche tu. Stavo chiamando Nagi. Basta Nagi, sentiamo. Ok. Allo. Allo, Ammar, chi fac? Tamam. Tamam. Bene. Bene, bene. Ammar, ciao, speak a little bit of Italian, right? Yes, surely. Hello, Salla, in our radio, in ZAM. You are on air now? Yeah. Yes. And all the Italian people are listening to you. We have about 1,000 people that is listening to you. No, it's not true. Not so much, but someone, yes, is listening. Maybe. It depends on what you say. Yeah, so thank you for this invitation. Thank you. And first, Viva Italia. All our hearts is with Italian people and with all the people around the world in this coronavirus. And really we feel... really sad and hopeful, and we are pray for all the Italian people to pass this coronavirus. Thank you, Ammar. Really, Every time you and the other friends and comrades from Palestine use very, very sensitive words for us, is very important. Thank you. Marco, come è già successo in precedenza, quello che sta dicendo adesso Giulia ci ha salutato noi italiani e ci tiene a esprimere la sua solidarietà verso la situazione che c'è nel nostro paese attualmente a causa del coronavirus. So Ammar, we called you to speak about resistance. As I told you, oh la la, very very simple topic. Yeah. As you know, in Italy, last week was the 25 of April, the liberation of from the fascism. Yes, and we want to make this connection with you. Because also in Palestine we fight for freedom, and you keep resistance against occupation. What's the meaning for you in the past and now also for you in Palestine? Really simple question, the first one. Yeah, it's easy question. So first, we are all Palestinian, Italian, French, all the world, we are in one box. And this box is controlled by, it was controlled by fascism, now it's controlled by capitalism and imperialism. So we are all, we need to fight and resist for our freedoms in our minds and our life. The difference between Palestinian resistance and any resistance in the world is we still fighting apartheid system, colonizing minds, which is called Israel. So since 72 years ago, 1948 until today, we are fighting this killer mechanism of Zionism. Okay, Ammar, can I translate it? Yeah, this is why I stopped. Okay, perfect. He knows. It was like a rhetoric question. Quindi, allora, Ammar ha iniziato dicendo che noi siamo tutti nello stesso libro della storia, possiamo dire. E che in precedenza era le nostre storie erano controllate dal fascismo, qui almeno qui in Europa, ma anche in altre parti del mondo, dal fascismo, dal nazismo, e adesso invece il controllo si è trasferito nelle mani non più di un sistema politico monopartitico, ma nel sistema economico capitalista, che esercita un controllo sulle nostre vite al pari di quello, se non qualche aspetti peggio, di quello che applicava il fascismo. La differenza, lui dice, tra la resistenza palestinese e gli altri tipi di resistenza, come quella appunto che abbiamo festeggiato settimana scorsa qui in Italia, è che attualmente in Palestina loro continuano questo tipo di resistenza, ed è una resistenza contro un regime di apartheid, l'apartheid imposto dagli israeliani, e in particolare contro un tipo di ideologia che è quella sionista, che è un'ideologia da colonizzatori, un'ideologia imperialista, e quindi lo dice, la differenza è proprio questa, che noi stiamo combattendo attualmente contro il regime di apartheid da 72 anni. Ah, giusto, da 72 anni. Ok, Ammar. So yeah, in Palestine we have like cocktail of this system. It's mixed by capitalism, colonialism, fascism and imperialism. And the tool or the war tool, it's used Israeli to push it or to make it accepted for Palestinian people to occupy this land and to transfer Palestinian people from their homeland to outside of the country or even inside the countries, which is mean we are refugees. As me, I am a refugee in my country, and I don't have any right to protect myself to back to my hometown, which is called Zakaria, and it's not far away from the place I am leaving now. I don't have any right as a human. Ok. Yeah. Ha iniziato dicendo che in Palestina loro vivono all'interno di un cocktail, un cocktail che comprende il capitalismo, comprende il colonialismo, comprende l'imperialismo e comprende il fascismo. Il tutto sono tenuti insieme da quell'ideologia che è il sionismo, che è applicata dal regime israeliano, che come sappiamo occupa i territori palestinesi appunto dal 48, e ha due obiettivi principali, o meglio, si può riassumere in un unico obiettivo, quello di cacciare i palestinesi, ma i due obiettivi di cui parlava Ammar sono l'occupazione del territorio palestinese e dall'altra parte appunto il trasferimento di cittadini palestinesi, autoctoni quindi, sia all'interno che al di fuori della propria terra. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che all'interno del territorio palestinese, degli attuali territori palestinesi, esiste, tra cui Ammar fa parte di questa grande insieme di persone, una grande quantità di rifugiati. Quindi sono persone che, pur vivendo all'interno del loro territorio nazionale nativo, non vivono più nella loro città di origini, ma perché? Perché le loro città di origini sono cadute all'interno dei territori occupati. Ammar viene da Zakaria, che è una cittadina non molto lontana da dove si trova adesso, che è il campo profughi di Deisha, però lui non ha nessun diritto di potervi fare ritorno, non ha nessun diritto di fatto come essere umano. Ok, Ammar. So when you hear all this stuff in the first time you shook and as a human, not just as a Palestinian, as a human, any human who's believing for justice and freedom in the world, he will start fight for this human beings to stay in life and to back them rights. And this is what we are doing in Palestine as Palestinian. We are Palestinian, we born here, we are living here, we have our rights as a human first. Second, our political rights. So, the resistance in Palestine, we have two sides of resistance. Is our human rights and our political rights. Our human rights is to keep our life in safe. And our right of movement, our right of thinking, all this stuff. And our political right is Palestine, for it's our land, my home, my town. I cannot accept any colonizing in this country. Okay. Ammar dice che, come qualsiasi altra persona umana, appartenente alla specie umana, ciò che vogliamo tutti è semplicemente la libertà di vivere. E per questo motivo siamo pronti a combattere per i nostri diritti o anche appunto semplicemente per poter sopravvivere nella situazione in cui ci troviamo. Quello che dice Ammar è che ogni palestinese fin dalla nascita si trova a dover combattere, quindi ad applicare una forma di resistenza fin dalla nascita, e in particolare questa resistenza si divide su due aspetti della propria vita, o meglio, su due aspetti dei diritti. Da una parte ci sono i diritti umani, dall'altra i diritti politici. Per diritti umani lui intende il diritto alla libertà di muoversi, il diritto alla libertà di pensiero, e insomma tutti in generale i diritti umani come vengono anche sanciti a livello internazionale. Dopodiché c'è la parte dei diritti politici. Per i diritti politici semplicemente si intende il fatto che, essendo la Palestina la tua terra, se tu sei nato in Palestina, la Palestina è la terra a cui appartieni, non puoi accettare che quella terra venga occupata da qualcun altro che ti vuole cacciare dalla tua casa. È un concetto molto semplice in realtà. Ok, Ammar? So yeah, so from here, we have the right to fight and to resist for our rights. And since long time ago, before the occupation of Israel came to Palestine, 1948, and before British mandate, we was living all together as a humans. So it's not matter if you are Muslim, Jew, or Christian, or you are believing or not, black or white, is not matter. We had very good life before the Israeli came and occupied our land and make the differences between peoples. As you, in Italy, for example, you have Muslims, Christians, black and white, and equal system, and you are living all together as normal. So from here, the resistance, the word of resistance came in Palestine to ask for your rights by peace tools or by military tools. It's not matter which tool you are using to get your freedom and your justice, because there is no peace without justice or justice. And we are looking for our justice now, before we are looking for our peace. Ok, quindi abbiamo appena detto che ci sono questi, che la resistenza viene portata avanti per garantire i diritti umani da una parte e i diritti politici dall'altra, e nel momento in cui questi diritti non sono riconosciuti è chiaro che esiste un altro diritto, che è quello di combattere per appunto affermare la propria libertà e appunto il rispetto dei propri diritti umani. E Amar ha detto che prima del 48, quindi prima dell'inizio della vera e propria occupazione israeliana e prima del British Mandate, come si dice? In italiano come si traduce British Mandate? Mandato britannico. Ok. Prima del mandato britannico, in Palestina la situazione era come in Italia oggi, nel senso che si viveva tutti insieme come esseri umani, senza fare differenze di religione, senza avere discriminazioni per il colore della pelle, eccetera, eccetera. Adesso la situazione appunto è cambiata e quello che richiedono tutti i palestinesi è la pace, ma soprattutto la giustizia, perché questo è un concetto che penso che, faccio una breve parentesi, penso che sia difficile per noi occidentali, che siamo sempre vissuti in un contesto che non è come quello palestinese, capire quanto la pace senza la giustizia sia un concetto totalmente frivolo. E io la prima volta che sono andato in Palestina ho capito veramente che la pace, come dire, è una cosa che arriva secondariamente rispetto alla giustizia, perché nel momento in cui c'è la pace ma non c'è la giustizia è inutile avere la pace, nel momento in cui c'è la giustizia allora c'è anche la pace. E Amar dice che per raggiungere la giustizia e quindi poi anche la pace si possono utilizzare sistemi politici oppure metodi politici oppure metodi militari. Okay, Amar. Yes, so there is no one in the world he can take my rights to resist for my rights. Not Trump, not Saudi Arabia, not Palestinian Authority, no one. I keep my resistance for my rights, which is, this is legal rights, not illegal rights, to ask for your freedom and your dignity to stay in life with a dignity. So yeah, this is like the main points of the resistance in Palestine or personality, and this is how I involved inside this political resistance in my camp. Yes. Ok, allora, proprio per il discorso che faceva prima Amar legato al fatto della giustizia, dice che nessuno ha quindi il diritto di portarli via la sua lotta, il suo combattere per la sua libertà, per i suoi diritti umani. Non può farlo Trump, non può farlo l'Arabia Saudita, non può farlo nessuno, ed è per questo che lui continua a combattere per avere i suoi diritti e per vivere soprattutto una vita degna anche all'interno di un campo profughi, ed è proprio per questo che lui continua a combattere per i suoi diritti, per la sua libertà, anche se in un contesto già difficile. Yes, yeah. Amar. Amar? Sì. Mm-hmm. You can Yes, sorry. So from maybe your people who's hearing now, they thought I am 70 years old. No. No. to back a little bit, I am 38 years old. I grew up in the first Intifada in 1987. I born in 1982. I grew up and I opened my eyes. It was the first Intifada, and I grew a little bit. I faced the Oslo Agreement, 1993-1994, and I start to became like a little young man in 2000, and it was the second Intifada. So imagine a child who's grown up in the first Intifada, he just smelled the gas. This is what we know. This is what I remember my childhood. I opened my eyes. I saw the soldiers in my home. I tried to smell a flower. I smelled tear gas. I go outside. No, it's allowed for you. It's not allowed for you to go outside of your home. It's blocked down. And you grow up with Oslo Agreement. We was happy. Oh, there is something new that will be happened. We will not see the Israeli soldiers. No, this is not in fact. No. You can translate. Allora, Amar dice che se finora l'avete sentito parlare, magari vi state immaginando un uomo abbastanza vecchio. Invece no, si tratta di un uomo di 38 anni. Nato nel 1982 e che quindi appena nato, appena cominciato ad aprire gli occhi e rendersi conto del mondo, si è trovato immerso nella prima intifada nel 1987. Crescendo ancora un po', si è confrontato durante la sua infanzia con gli accordi di Oslo tra il 93 e il 94, e nel momento in cui si è trovato a essere un giovane uomo, negli anni 2000, è scoppiata la seconda intifada. E di fatto è difficile per noi immaginare come un giovane ragazzo si sia dovuto confrontare con queste situazioni. Lui diceva: tu cresci, sei un bambino, sei un ragazzino, pensi di scoprire il mondo e se esci di casa ci sono i soldati, ma anche se non esci di casa ti entrano in casa con il tear gas, quindi senti, uno dei primi odori che senti è quello del tear gas. E lui si è confrontato con questa realtà degli accordi di Oslo, dove all'inizio sembrava ok, adesso ci sarà una novità, cambierà la situazione, e invece no. Tutti i giorni, come bambino, come ragazzino, si doveva confrontare con la presenza dei soldati nel campo. So yeah, this is what's the in that time what I was thinking is like a game. If you know the game of Tom and Jerry, for example, is people they are escaping and Jerry is just run away. You know, this is our childhood. So I was young in that time. I wasn't care if it's political or not, or it's mean nothing or not to throw stones even of on the Israeli soldiers. I didn't knew it's a political meaning, and you are going to a resistant way to fight the Israeli for your rights. So I remember the first time the Israeli arrested me. I was 9 years old. I was kid, and I spent around 4 nights or 5 nights inside Israeli prison because I was throwing stones on the main street on the Israeli settlers' cars. I didn't knew it before it's It's not allowed to throw stones on the occupation, but it's happened. So from here, it came the after the arrested, it came, okay, it's shocked in my mind why those soldiers are passing my home and controlling my life 24 hours each day, and I don't have a right against them. Ok, allora, ha iniziato dicendo che per lui quando era piccolo non capiva chiaramente il significato politico della situazione, diceva che per lui era come un gioco, un po' come Tom e Jerry, ha detto, nel senso che Jerry si limitava a scappare e a difendersi per quanto poteva, quindi tramite ad esempio il lancio di pietre contro i soldati israeliani armati fino ai denti, ma appunto quando era piccolo non... rimaneva tutto lì, era questo gioco tra le parti a cui lui partecipava perché lo facevano tutti, fin quando a 19 anni, giusto? 9. No, 9 anni, scusa. A 9 anni viene arrestato per la prima volta, passa 4-5 notti in prigione, nelle prigioni israeliane, perché è stato visto, insomma, per lancio di pietre contro le macchine dei coloni, tra l'altro neanche dei soldati. Ho detto neanche perché spesso queste azioni in cui gli israeliani entrano all'interno dei campi profughi avvengono da una parte tramite la milizia, quindi tramite i soldati israeliani, dall'altra insieme ai coloni, che in teoria sono civili israeliani. E lui semplicemente, come dire, questo fatto di essere arrestato in qualche modo lo stupisce anche, perché lui dice, boh, non sapevo neanche fosse vietato lanciare le pietre contro una forza occupante. Cioè io, nella mia testa era... Il gioco delle parti funzionava così, io mi stavo difendendo insieme ad altri palestinesi perché loro erano venuti nel nostro campo per arrestarci, occuparci, lanciare tir gas, eccetera, eccetera, quindi per me era tutto normale. E qui inizia a chiedersi appunto quale sia il senso, per quale motivo nella sua vita ci sia permesso a dei soldati entrare in casa sua quando vogliono e arrestare le persone, casa sua e a tutto il campo di fatto. Però lui si è scontrato in questo primo momento con questa realtà politica molto, molto forte. Okay, so from that time, from 1992... until 2000, I saw thousands of thousands happens between Palestinian and Israeli, especially to fight Israeli occupation. But in that time, as a kid or as a child, nothing to do. I just learned from that time, from that period. What's the occupation mean? What the Israeli soldiers doing in my home or land? What's the political parts of Palestinian, the Palestinian political parts? What's mean Palestinian Liberation Authority, Palestinian Liberation Organization, which is the it was only political. Organization present Palestinian refugees, Palestinian case around the world, inside and outside. So I learned a lot from 1992 until 2000. Ok, dal 92 al 2000, lui è un bambino... bambino, un ragazzo ancora molto giovane, molto piccolo, e dice che quello che fa è si limita a imparare cosa vuol dire vivere sotto l'occupazione. Conosce, vede in prima persona tanti episodi di lotta contro l'occupazione israeliana, inizia a capire come funziona il sistema politico-partitico palestinese e che cos'è l'OLP. In quanto unica organizzazione che si occupa in quel momento, organizzazione politica palestinese che si occupa in quel momento della questione dei bambini rifugiati. Yeah, in 2000 I was just preparing myself to graduate from the secondary exams and the second intifada is begin in the end of September 2000. Ok, nel 2000 accade che mentre lui si stava preparando per diplomarsi, sì, E gli mancava forse l'ultimo esame, se ho capito bene, e niente, succede che a fine settembre del 2000 scoppia la seconda intifada. So now for me, the meaning of resistance is change, and the type of resistance is change, and the tools to use to fight Israelian is change, because in the first intifada, it was the Israelian beside your home, but now, after the Israelian took a step back around Bethlehem area, so you need to go to the Israelian to fight them, not the Israelian, they are in front of you to fight them. And this is another strategy, you need another tools, you need another knowledge, how you can fight Israelian soldiers and stop them, to didn't let them attack your area again. Ok, a quel punto, quando scoppia la seconda intifada, il significato del resistere e anche gli strumenti con cui resistere cambiano, perché Giulia, correggimi se ho capito bene, perché mentre nella prima intifada mentre nella prima intifada gli israeliani entravano all'interno dei campi profughi e tu dovevi difenderti, in qualche modo difendere casa tua, adesso la situazione è cambiata in questi anni e quindi, come dire, le cose sono invertite, nel senso che... Si dice che l'esercito israeliano rimaneva fuori da Betlemme, quindi erano loro che dovevano andare ad attaccarli e colpirli e a cercarli, quindi sviluppano anche tutta un'altra serie di... Metodi. Metodi, ecco. Metodi proprio in questo scambio, chiamiamolo così. And still until in that time, in December 2000, as I remember, I wasn't involving any military political parts. I was involving or a part of Fatah organization, caring for students' forum in the schools. So it's a political part. Fatah is a political part. But there is two parts inside Fatah organization, which is military's part and unmilitary part. I was unmilitary part. I just caring for students' needs, books, blah, blah, blah, as a normal things, before I involved to the military's part. In 2000. Ok, lui dice che fino a quel momento non faceva parte di nessun faceva parte di un partito politico, ma adesso vi spiego in che modo, nel senso che lui faceva parte di Al-Fatah, ma all'interno della propria scuola. Quindi Al-Fatah aveva due parti, una parte era quella che si occupava più dell'aspetto militare, l'altra parte era non si occupava dell'aspetto militare, lui faceva parte di questa seconda perché appunto quello di cui si occupava lui era dei diritti degli studenti, delle classi, dell'istruzione in generale, dei bisogni, eccetera. Era un rappresentante degli studenti, tipo. Ma poi cambia. Poi cambia. Ah, giusto, a partire dal 2000, mi sono indicato l'ultima frase, a partire dal 2000 cambia, passa all'altra parte di Al-Fatah, quella militare. So after a while of involving myself in this military's part, Fatah organization, I start to learn new things about resistance in Palestine. So, okay, it's nice to resist or to fight the occupation by negotiation, but since 1994 until 2000, the negotiation change nothing between Palestinian Authority and the Israeli Authority. It's just they sized the Palestinian people inside the boxes, which is called Area A and the cities, and the Israeli controlled 100% of Palestinians' life and Palestinian needs during this negotiation. So from here, the big change came inside my mind to didn't follow the political part for negotiation and to involve with the military's part for fighting for my rights or what still have this right in that time. Quello che dice è che nel momento in cui entra, fa parte dell'ala militare di Al-Fatah, inizia a vedere le cose da un altro punto di vista. Lui dice che sicuramente è importante portare avanti un tipo di resistenza attraverso i trattati e accordi internazionali, ma quello che accade è che nel 92-93, come abbiamo detto, c'è l'accordo di Oslo e questa negoziazione in realtà non cambia nulla per i palestinesi, anzi in realtà peggiora la situazione in quanto in qualche modo mette su carta, mette nero su bianco la possibilità degli israeliani di controllare la maggior parte del territorio palestinese. Questo perché? Perché, come sappiamo, con gli accordi di Oslo il territorio palestinese viene suddiviso tra la zona A, zona B e zona C, e in questo modo l'esercito israeliano, lo Stato israeliano, controlla la maggior parte del territorio palestinese. So, after a while of fighting the Israeli during the occupation attack of Palestinians area in the Second Intifada, I got injured in 2002, all my body. Most I died, and I back from death like the ghost. And I continued my struggle again, and I was wanted for Israeli soldiers 2 years until they catched me in 2004, and I got arrested 2 years and a half from 18 years. This is a little bit is need to explain. As a Palestinian, we don't go to the civilians' court inside occupied Palestine. We need to go to military court, which is the judgment. He's finished just military service in Israel, so he judge you about with military's law. Allora, ci dice che nel 2002, mentre lui stava combattendo contro l'occupazione israeliana, viene ferito gravemente in più parti del corpo e di fatto è come se fosse quasi morto. E lui dice che come un fantasma è tornato dalla morte. E nei 2 anni successivi era ricercato. Si è nascosto per lungo tempo finché nel 2004 viene arrestato e aveva 19 anni e passerà 2 anni e mezzo in prigione. Questo è un processo molto particolare perché appunto dice che in Palestina non vieni giudicato da un tribunale civile, ma vieni giudicato dal tribunale militare israeliano. Quindi ci lascia immaginare che non è una situazione proprio a loro favore, nel senso dei palestinesi. Ed era un giovane uomo di 19 anni. So also inside the prison, when you get arrested and you meet these grateful people, Palestinian people inside the jail, you see different knowledge, different people from another place. Some places you cannot reach as a Palestinian, like we call them Arab 48 or Green Line, behind the Green Line. These cities, never in my life I have been there. Is not allowed for me first. Second, you need complicated permissions to just pass the checkpoints to visit your country inside. So you meet them in the prison. You can draw the picture for the stories they are telling you from that places. So you start to know your country as well from them, even inside the prison. You learn political subjects, like deeply inside the political subjects or Palestinian political parts. You learn how to survive with your life. You learn hundreds of things you need it after your release, even from the jail. Ok, lui dice che nel momento in cui è entrato in prigione ha incontrato gli altri prigionieri politici palestinesi e fa riferimento a queste persone con, come dice, dei grandi personaggi, grandi persone che sono state arrestate evidentemente per resistenza che portano avanti, e loro gli raccontano le storie di ciò che sta dentro il 48. Il 48 è come viene chiamato i territori palestinesi occupati, ossia dove ad oggi sorge lo Stato israeliano, e inizia a conoscere anche un'altra parte del paese che è il suo paese, ma lui non ha mai avuto la possibilità di andarci perché bisogna fare tutta una serie di permessi che in pratica rendono impossibile a un palestinese nato in West Bank appunto di Di recarsi, recarsi, sì. esatto, in quei territori lì, e inizia a capire appunto più della storia politica palestinese, inizia a schiarirsi anche le idee da un punto di vista politico e a capire come sopravvivere poi al di fuori della prigione anche. So yeah, in 2000, after 2 years and a half in the jail, it was like the beginning negotiation between Palestinian Authority and the Israeli Authority, how they can start the negotiation of peace or peace process after Arafat is dead. The Israeli side, they released 1,000 prisoners from Israeli jail. I was number 1,000, and the order in that time I have to spend 18 years in the jail. So I was lucky, thanks God. Allora, dopo 2 anni e mezzo in prigione, inizia la negoziazione di pace tra l'autorità palestinese e Israele, anche in seguito alla morte di Arafat, ed è proprio in quell'occasione che viene deciso il rilascio di 1.000 prigionieri palestinesi dalle carceri israeliane. E la fortuna di ammare è di essere il 1.000° prigioniero rilasciato. E appunto per questo esce di prigione perché altrimenti avrebbe dovuto passarci altri 19 anni. So after that, so I after I released from the jail, I, to be honest, I sit with myself, and I made two lines, which is negative and positive, or plus and minus. And I say to myself, okay, now after all this time, from 2000 to 2006. I missed a lot of comrades, friends. They are martyrs. The next part of my friends, they are in the prison. The third, they are just run away outside of the country. So it's time even to continue the resistance, but in different way. So I choose to work with the organization inside the camp to help the people and to rebuild our society, to care for our children, a new generation, and to teach them or to explain to them how it was and maybe how it comes. Ok, dice che dopo il rilascio ha un periodo in cui fa una sorta di bilancio della sua vita, dice guarda, ha aspetti positivi e aspetti negativi, e siamo già quindi nel 2006, e in quel periodo lui perde molti amici perché o vanno via, perché sono costretti a emigrare dalla Palestina per trovare delle condizioni di vita migliori, oppure muoiono durante i raid israeliani o finiscono arrestati. E in quel momento lui decide di attuare un altro tipo di resistenza, quindi continuare con quella resistenza ma sotto un'altra forma, ossia entrando all'interno di organizzazioni che si occupano della vita all'interno dei campi profughi, che si occupano della costruzione di una comunità, dell'istruzione, dell'insegnamento anche della storia palestinese ai bambini che stanno nei campi profughi. E adesso vediamo. Ok, Amar? Yeah. So yeah, this is how we continue our struggle and our fight of Israeli occupation is to do the good things for our society and for ourselves. Because, as you know, it's Palestinian society, it's a closed society. We care for everybody. we are sharing everybody. This is what I like it in your country now, in Milano. During this coronavirus, I saw some organizations sending some food for old people and caring about them without asking back. And this is strange in Europe, or start to be strange in Europe after this time, after the Second World War. Few people, they are making voluntary work. But when I saw the pictures in Milano, I was really, really happy. And I felt, okay, this is another Palestine in Milano now. And people, they are caring for each other more and more. And there is some organization start to do social movement. So really, thank you for that. Thanks to you. E, ha detto che quindi continua il suo struggle, il suo sforzo contro l'occupazione, la sua lotta contro l'occupazione israeliana. E quello che dice è che la società palestinese è una società che è chiusa perché appunto vive sotto occupazione. Ma chiusa cosa vuol dire? Vuol dire che semplicemente tutti i palestinesi si trovano in una situazione per cui hanno bisogno uno dell'altro, hanno bisogno dell'aiuto reciproco, quindi si crea una comunità molto coesa, solidale, in cui ci si aiuta a vicenda, in cui si cerca di essere autosufficienti e autosufficienti come comunità, quindi aiutandosi l'un l'altro. E lui dice, mi ha fatto molto piacere vedere che uno degli effetti del coronavirus in Europa, così come era successo dopo la Seconda Guerra Mondiale, è quello di creare delle sacche di solidarietà, quindi di vedere come molte più organizzazioni si occupano di, dice, per esempio, di portare cibo alle persone che ne hanno bisogno, quindi di fornire dei servizi alla comunità in maniera gratuita, in maniera solidale. Yeah, so until now, since that time until now, I am working with organizations to grow up with my society, even in a political way. I am active. I say and I do many, many things, even against Palestinian Authority when they did or when they sign bad agreements. The result, it's affected a negative for Palestinian people, and surely I'm not believing anymore with authorities, because authorities is a part of capitalism and imperialism in the world, and they push us to accept what which is not be accepted for Palestinians, especially like to normalize my case with Israeli. For example, there is many Palestinian organizations. They are normalizing with, with the Israeli organization to, they call it peace process, or making Palestinian side meeting the Israeli side and hearing from each other and blah, blah, blah, which is, this is 100% is not accepted for me or my comrades who's working in the same organization. Because normalization, it's, you will lose, and you have to accept the occupation as well, and to normalize your life with this occupation is you accept this borders, you accept they stole your land, they accept they stole your dreams, they accept you have to accept all the checkpoints. They are checking you more than 5,000 checkpoints in West Bank only. You don't have any right to back to your hometown. You don't have any right to move. You don't. So how I can accept the normalization with those people, with those not people, with those settlers inside my country, and normalize my life with them? So from here we boycott the Israeli organization, we boycott the Israeli education, we boycott the Israeli music, we boycott the Israeli food, everything. And still, there is some ways we cannot refuse from the Israeli side, because we have the only border controller is the Israeli, so we cannot import or export as independent from Palestine or to Palestine. So we are forced sometimes or somehow to use something from Israeli because we don't have another side to, or Palestinian factories or Palestinian side to find it without Israeli control. So from here, we are not accepted the normalization with the Israeli or with the occupation, or any organization, even international organization, is making links or strong links or trying to make links between Palestinian organization and Israeli organization. Ok, allora, ha detto che quindi da quel giorno ad oggi lui ha continuato a lavorare con queste organizzazioni. Beh, immagino faccia riferimento all'ILAC, ovviamente. Non solo, anche prima altre. Anche ad altre, ok, perfetto. E per creare un modello di società che sia diverso, che abbia anche una coscienza politica. Lui dice che è comunque rimasto attivo politicamente e ha anche contestato duramente diverse decisioni che sono state prese dall'autorità nazionale palestinese, che erano delle decisioni che andavano verso un processo, adesso ne parleremo un po' meglio, di normalizzazione, adesso ci arriviamo. Quello che ha detto che è interessante è anche il fatto che inizia a non credere più nell'autorità statale, perché lui dice è parte integrante del sistema capitalistico e nel momento stesso in cui il governo e i partiti iniziano ad avere a che fare con lo Stato israeliano, stanno già riconoscendo lo Stato israeliano e quindi in qualche modo stanno venendo meno la protezione dei cittadini. Stanno tradendo il popolo palestinese, non fanno l'interesse del popolo palestinese. Adesso questo è un po' il concetto di normalizzazione, lui ne ha iniziato a parlare. Allora, vediamo un attimo. Quello che dice lui è che molte organizzazioni, anche palestinesi, portano avanti quello che da loro è chiamato un processo di pace. Processo di pace, si tratta appunto di in realtà una normalizzazione, che vuol dire avere dei rapporti con gli israeliani, cercare di ottenere dei link, dei collegamenti tra per esempio associazioni di cittadini palestinesi e associazioni e cittadini israeliani, ma tutto ciò vuol dire semplicemente riconoscere l'altro, riconoscere l'israeliano, riconoscere l'associazione israeliana e quindi accettare nello stesso momento l'occupazione, accettare l'esistenza di questi confini, accettare il fatto che ti rubano la terra, che ti rubano i tuoi sogni, accettare l'esistenza dei checkpoint sopra il tuo territorio, accettare l'esistenza delle colonie. E Ammar dice: come faccio io ad accettare tutto ciò? Io sono assolutamente contrario a questo processo di pacificazione o di normalizzazione, come lo vogliamo chiamare, e non voglio assolutamente avere a che fare, non voglio in nessun modo giustificare e legittimare la presenza sionista e israeliana sul mio territorio. Tuttavia poi è chiaro che essendo tutti i confini del West Bank controllati dall'esercito israeliano, bisogna averci a che fare in qualche modo con questo esercito, perché anche banalmente il commercio deve passare attraverso i checkpoint, quindi è chiaro che ci sono delle situazioni in cui purtroppo è necessario. Sì, lui dice che appunto a causa di questa chiusura nei confronti della terra palestinese, loro a volte non hanno le risorse per poter produrre ciò di cui hanno bisogno e quindi sono costretti a farlo importare dall'esterno, e spesso vuol dire anche dallo stesso Israele, proprio a causa dei serratissimi controlli. Quindi anche loro a volte sono costretti a dover comprare prodotti israeliani o comunque avere a che fare, ma loro decidono in tutta coscienza politica di non accettare questo processo di pacificazione, come viene chiamato, che per loro è normalizzazione, quindi di una sorta di accettazione di quella che è la situazione, in sfavore ovviamente del popolo palestinese. Sì, è la semplice decisione di avere dei rapporti con l'oppressore, ovviamente. Ok, Ammar. So yeah, so this is like a small example It's like you have really pretty house and very nice garden. And I came to your house, I kicked you out, I gave you a tent, and I asked you to put the tent in the street and live in this tent. You cannot move. I give you 2 bottles of water. You have to accept it. And this is for your bath. This is for drink. This is for making food. And you cannot move from this tent. And you ask me for more rights, and you are taking my house, and you are living inside my house. So how I can normalize my life inside this tent, and you are taking my house, my pretty house, my garden, and I cannot, I don't have any rights. So how I can normalize the life between me as in the tent, and you are in my house? I cannot. This is not normal. This is not accepted. Ok, fa un esempio molto, molto preciso, cioè, rende molto bene l'idea, anche perché in realtà è proprio ciò che è successo. Lui dice, facciamo finta che io abbia una casa, o una bella casa con un giardino, la mia terra, o le mie risorse, l'acqua, tutto quanto. Quello che succede è che un bel giorno arriva un esercito invasore che ti caccia via da casa tua, ti mette all'interno di una tenda, ti proibisce di muoverti da quella tenda, ti dà 2 bottiglie d'acqua al giorno e ti dice mo ti devi arrangiare e io invece sto andando a vivere a casa tua. Lui dice, come posso io pensare di normalizzare la mia vita all'interno della tenda che si affaccia sulla quella che era una volta la mia terra, che invece adesso appartiene a qualcun altro, che si affaccia di fronte alla mia casa che adesso appartiene a qualcun altro, io invece sono costretto a vivere all'interno di una tenda e con 2 bottiglie d'acqua al giorno e basta, senza diritti, senza nient'altro. Nel momento in cui io iniziassi a parlare con chi vive all'interno della mia casa, prendere accordi con lui eccetera eccetera, questo è il processo di normalizzazione. Dico che è un esempio molto azzeccato perché in realtà la storia della tenda è quello che è veramente successo, perché i campi profughi nascono proprio in questo modo. Sì, sì, lui lo fa proprio come esempio abbastanza palese, un'immagine che può colpire in realtà la mente di chiunque, arrivare molto chiara. Okay. This is us as a Palestinian refugees in our land. This is what's the struggle and fight Israeli and how we see it. And this is what we keep from generation to generation to back to our hometown, back Palestine to Palestinian, and find the justice inside Palestine. This is minimum. And also as a humans, as a Palestinians, humans, we know and we knew what the Israelians thinking about that. Is like a Palestinian, they want to throw the Israeli on the sea and taking the land back. No, we are not criminals as them. We are not making crimes at them. We didn't make any Holocaust like they did the Israeli or the system inside Israel. Also, they did 100 Holocaust inside Palestine, 100 massacres inside Palestine with the Palestinian people. So I cannot understand until now how is people, they are taking the Holocaust in German as a reason or as a cause for what's happened with them. To still this country is making 100 Holocaust of poor people with the same pain. So this is, I can't understand it until now. I hope someone he can understand it and tell it to me, so maybe I can think about it. Ok, dice che la situazione è questa da generazioni e che a differenza degli israeliani loro stanno semplicemente combattendo per la loro terra, quindi come dire, anche quando lui sente dire da persone ma voi siete dei criminali perché, che ne so, lanciate le pietre eccetera eccetera, in realtà si tratta di una forma di difesa e una resistenza mi viene da dire, così come avveniva per i nostri partigiani dal 43 al 45, e loro non sono dei criminali che stanno andando a distruggere la vita di qualcun altro, a distruggere la terra, a rubare appunto la terra, i beni, eccetera, eccetera, di altre persone. E quello che si chiede, lui dice, non riesco a capire come si può giustificare, cioè dire che l'Olocausto è la giustificazione dell'occupazione israeliana in Palestina. Sì, soprattutto per chi lo ha vissuto come adesso può riproporlo in maniere diverse contro un'altra popolazione. E lui fa veramente fatica a comprendere questa situazione e dice ironicamente che avrebbe bisogno di qualcuno che gliela spiegasse perché proprio per lui è difficile riuscire ad arrivare ad una risposta. Yes. So, this is in general in Palestine, everything is complicated, I can say, because of the Israeli occupation. The situation is not easy in some places, especially like in a city of Hebron, like in Jerusalem. This is the complicated the complicated towns where Palestinians suffering a lot of they face the hundreds of problems there. So people, the Palestinian people, or any people under the occupation in the world, I think we are the last occupation in the world, they have the right to fight for them rights. And this is a step in life to against this mechanism of Israeli or the killers of Israeli who's killing not just the Palestinian people, they are killing the Syrian people, they are killing the Lebanese people, they are killing everywhere. And no one they can or want to stop the Israeli what they are doing. Even the international law, the United Nations, I don't know, they are not caring for anybody. They thought they are bigger than the people in the world. They are specialists. I think they are specialists as unhumans. Yes, surely, this is 100%. They are killers, 100%, more than the fascism. And this is what in the beginning I said, we are drinking the cocktail of Israeli occupation. And I think the spicy is the fascism. Allora, appunto, Omar dice che questa è la situazione di fatto della Palestina di oggi e ci sono delle città che vivono una situazione ancora più difficile come Hebron e Gerusalemme, dove sono costretti a interfacciarsi ogni giorno con non soltanto l'occupazione, ma svariati problemi che ne derivano. E di fatto questo è il loro resistere contro l'occupazione, contro l'imperialismo sionista, che però di fatto nessuno cerca di fermare. E lui definisce un po' ovviamente diverso dal fascismo con cui ci siamo confrontati noi durante la Seconda Guerra Mondiale, proprio perché al momento Israele fa da padrone, li ha definiti i più grandi, non soltanto contro i palestinesi, ma anche continuano a prendersela ad esempio, con i siriani, con i libanesi, e nessuno finora a livello internazionale ha mai avuto il coraggio di bloccarli, di stopparli, proprio perché loro hanno questo atteggiamento da padroni e sono di fatto degli specialisti, e lui ha usato proprio il termine, mi trovo assolutamente d'accordo, nell'essere disumani proprio per calpestare i diritti delle altre popolazioni. Ed è per questo che lui all'inizio del discorso parlava di una sorta di cocktail. Loro palestinesi sono costretti a bere questo cocktail fatto di colonialismo, imperialismo, apartheid, e la spezia in più è appunto il fascismo. this is our dream, and we will not stop our fights, our struggle against the Zionist of Israeli occupation, or the lobby of Zionism. We know one day we will get our right back. Europe and another countries was in dark for hundreds of years, and finally the sun is shine there, and they got the sun is the sunlight. And here, okay, we are living in a dark under this occupation, but one day we will pass away this dark cloud, and we will have our sun back. This is our hope, and this is we are growing up with this hope, and never we will give up. If it's not my generation, the next generation, or the next, or the next. No occupation in the world stay forever. This title, we stamp it, we make it tattoo in our heart and between our eyes, and we see it each day when we are looking in the mirror. We can see our Greenland back to us, and we join with all the people around the world. Is not Palestine is not just for Palestinians. Palestine is for everybody who's believing for justice and human and religious, if he's religious or not even. Palestine is a specialist in the world. A specialist because it's not for anybody. So I hope one day all the people around the world, even they are 8 million now, they can come and live in Palestine. I don't mind. It's a beautiful picture, Ammar. It's very hard to translate also. Allora, Ammar ha detto una cosa stupenda che secondo me è la caratteristica principale e più abbagliante dei palestinesi. Dice che il loro sogno, la loro speranza è liberarsi dall'occupazione e poter vivere le loro vite dignitosamente, potendo crescere senza un occupante che ti controlla la vita, la quotidianità, la giornata, la famiglia. E lui si rifà appunto, anche l'Europa ha vissuto dei tempi bui e finalmente ne è uscita. Loro adesso sono ancora in questi tempi bui, ma sperano un giorno che il sole possa sorgere anche in Palestina, e loro crescono con questa speranza e con questo appunto desiderio. Ma la cosa ancora più particolare è che a lui non interessa il fatto di avere la Palestina solo per se stesso. Per lui potrebbero andarci a vivere tutti quanti. E a lui non interesserebbe, per lui la cosa importante è vivere in pace, in giustizia, con giustizia per tutti e tutte, quindi in una situazione di completa apertura per il mondo, ed è per questo che lui combatte. Thank you, Ammar. You're welcome. It was very, very interesting also because you're sharing your personal experience, and I think it's not so easy. Surely it's not easy. And I hope all the Italian people will use your words also in our life. I know it's very different, the situation and our life, but I hope they can take a little bit of your struggle and your strength to fight also in their life. And take a little example, I hope. I feel it's started even in your country. When I said, people start helping each other and the social movement start to run more and more. So this is the beginning. And Italy, it's not far away from caring or thinking about others people's rights. So, and they faced a lot during the centuries back. So I'm not shocked with the Italian people, but this is like they are wake up now and they are they start to look around Italy, what's good for Italy or not, like what's happened when they ask help from European Union. So I think Italian now, Italian people, not Italian politician, because, you know, politician is the same everywhere. Authorities is caring for chair and power and money and all this stuff. But people, they can make the difference in everywhere. We hope so. We really hope this, that people are we can come changing. And give you some help. You know, it's not matter. Oh, yeah, you give, are welcome. We give a hand everywhere. You are really welcome. Really. Thanks. Thank you so much, Ammar. And maybe next week we will call you again to share your life with us, with Italian people. With my pleasure. And shukran kteer. Afwan. Muchas gracias. Shukran. Grazie, Ammar. Libra Italia, Libra Palestina. Yeah. Thank you. Bye, Ammar. Big hug. Ciao, ciao. Ragazzi, Ale. Beh, spero vivamente che la condivisione di una storia così forte, anche perché appunto Ammar, per esempio, nel mio caso non ha molti anni più di me, due vite così differenti, ma appunto io spero che la condivisione di queste storie, di queste vite, possa veramente entrare nella testa e nei cuori delle persone che ci ascoltano e che possano farne buon uso, soprattutto in questo momento dove, va bene, non siamo sotto occupazione, non c'è una guerra in atto, ma di sicuro, come diceva Ammar, il movimento sociale, l'attenzione gli uni verso le altre è davvero davvero importante. Spero che siano in tanti a risvegliarla. Sì, è una speranza, questa cosa che i palestinesi hanno un'enorme speranza che li spinge a combattere. È sempre bella da notare, da sottolineare. E dà una grande forza, esatto. Anche. Va bene, direi che facciamo un po' di pausa, sì, perché è prego. Stato molto, molto forte, intenso. Ma poi riesce a fare un discorso che dura tantissimo, ma molto conseguenziale, molto logico. È bravo. Sì, bravo, è abituato. Parlare. È abituato a parlare. Bene. Direi che, visto che l'ultima immagine di cui ha parlato Ammar riguardava il sorgere del sole sul territorio palestinese, mettiamo una canzone che si chiama The Son of Love. Mm-hmm. Va bene? Questo collegamento ti piace, Giulia? Sì, bravissimo, okay. Caspita. E surprising me. Ritorniamo tra un po', va bene? أشرقت عندها القلوب الحب أشهى إلي مما يقوله العارف اللبيب شمس الهوى في النفوس لاحت فأشرقت عندها القلوب الحب أشهى إلي مما يقوله العارف اللبيب يا حب مولاي لا تولع عني فالعيش لا يطيب لا أنس يصفو للقلب إلا إذا تجلى له الحبيب يا حب مولاي

كنت زماني الآتي Ed eccoci tornati. Siamo di nuovo qua. È stata un'ora molto intensa. Intensa, ma appassionante. Stavo dicendo a Giulia che a me mi è piaciuto molto, mi ha preso molto il racconto di Ammar per come è stato fatto. E lo trovo estremamente interessante. Sì, è che voi non potete vedere, c'era Riccardo che ogni volta che dovevamo tradurre si lanciava sul microfono. Faccio io. Per poter tradurre. No, vabbè, ci mancherebbe. Io devo essere sincera, questa storia l'ho sentita già molte molte volte. Immagino. Però non mi stanco mai di ascoltarli. E poi è soprattutto Ammar come un fratello maggiore per me. Quindi assolutamente. E purtroppo, cioè, avevamo un altro ospite che però mi aveva già anticipato alcuni problemi di orario, perché forse voi non lo sapete, ma c'è il Ramadan in questo momento, è scattato già il Ramadan e quindi tutti loro hanno questa sorta di orario completamente sballato, quindi possono mangiare soltanto al calare del sole, bere anche, e il secondo invitato doveva essere Ayman, un ragazzo anche lui molto giovane, più giovane di Ammar, all'età a 25 anni. Ma anche lui ha vissuto molto sulla sua pelle che cosa significa resistere e combattere all'interno della Palestina, e specificatamente di un campo profughi, ovvero quello di Deisha. Solo che appunto mi aveva già anticipato che come orario non era proprio il migliore, in questo momento non mi sta rispondendo, io credo che anche perché magari è al lavoro, quindi forse non... Sì. Però... lo andremo a recuperare di sicuro, proprio perché io credo che sia molto interessante poter sentire la storia di un ragazzo di 25 anni completamente diversa rispetto a quelle a cui siamo soliti confrontarci noi per la nostra realtà e la nostra quotidianità. E quindi lo chiameremo prossimamente, ma vi diamo subito un'anticipazione, così almeno voi che siete in ascolto lo sapete già e quindi vi potete preparare. Settimana prossima, sabato alle 15, andremo di nuovo in onda con le corrispondenze dalla Palestina, ma sarà una puntata dedicata interamente, mi sto un po' impappinando, alle donne. Daremo voce alle donne palestinesi. Esattamente. Quindi sarà tutta un'altra visione, tutta un'altra prospettiva, tutta una... altri argomenti anche. Gli approfondimenti. Esatto, quindi mi raccomando, non mancate. Esattamente. Bene, chiudiamo qua. Mettiamo una canzone. Mettiamo un'ultima canzone per chiudere e per salutarvi. Vi ricordiamo che potete trovarci su Telegram. Ah, sì, al canale allora. Telegram Radio ZAM. Esatto. Dove potete... mandiamo tutte quante le informazioni, i programmi. Potete scriverci in diretta tramite la chat, sempre una chat Telegram. Per trovarci basta digitare dove c'è il cerca di Telegram, basta scrivere Radio ZAM, tutto minuscolo, tutto attaccato, _ chat, trattino basso chat, quindi Radio ZAM, _ chat, per scriverci in diretta. E ci trovate su Instagram. Esatto, io non mi ricordo mai Instagram, come si chiama? Radio ZAM. Radio Milano Sud. Radio Milano Sud. Mi sembra di ci sì. Ci ho messo un nome che non c'entra niente. No, vabbè, non c'entra, come se c'entra? È un po' diverso, oppure, no, Facebook l'hai già detto. Su Facebook non l'abbiamo ancora detto, ma anche lì si chiama Radio ZAM, quindi ci trovate in tutti questi posti contemporaneamente. E anche su Facebook ci potete scrivere tramite messaggio. Esatto. Per suggestioni, considerazioni, pensieri, cose... belle, non insultateci sempre, per favore. Sempre, come se ci insultassero. No, no, no, perché io lo dico sempre. Poi in realtà non arriva mai nessun insulto. Ma io, basta, state zitti. Esatto. Siete tutti molto carini e carine. Grazie mille. buon ascolto e ci sentiamo presto. Ciao ciao.